A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Laura Vanossi in redazione, Fabio Cantadore in regia. Oggi sono generoso, al giorno dei regali, perché io vi conosco bene, mascherine, so quanto vi interessi il mercato, lo so bene, il mercato del pallone. Per questo oggi ho convocato, ringrazio e saluto qui vicino a me, uno dei pochissimi colleghi che il mercato sul serio lo conoscono e lo capiscono, Carlo Laudisa, inviato alla Gazzetta dello Sport. Ciao Carlo. Ciao, grazie dell'invito, un piacere. Senti, ma perché il mercato interessa così tanto? Perché è l'ultima frontiera del sogno, è ancora quello che non si vede in un calcio in cui adesso si infilano le telecamere negli spogliatoi, come ben sai, eccetera. È sì, l'ultima frontiera del proibito. È l'ultima frontiera del proibito anche per noi giornalisti, perché evidentemente, e qui in radio possiamo dirlo perché non ci vedono, la TV ha invaso tutto, quindi è un bene ancora da difendere giornalisticamente, quindi lo aggrediamo, cerchiamo di essere anche attendibili, perché poi io ho il piacere e la fortuna di lavorare per la Gazzetta da un po' di anni, e quindi la Gazzetta dello Sport ha una tradizione di autorevolezza che cerchiamo di difendere anche sul mercato, nel senso che quando la Gazzetta lo scrive vuol dire che se non è vero è al 99% vero. Sì, sì, sì. Come si fa il mercato giornalisticamente? Quali sono i segreti del mestiere? Poi aspetto gli ascoltatori, perché oggi immagino tantissimi, 800 24 00 24, il numero verde. Beh, mi induce a fare delle considerazioni che potrebbero essere un po' retoriche su quello che è il lavoro del giornalista. Certamente nell'ambito sportivo io credo che il calciomercato sia anche una palestra di cronaca evidentemente ancora molto importante, probante, anche perché al di là dell'espressione felice che hai usato tu in apertura, quella sul sogno, che evidentemente accompagna tutti noi, perché tutti noi capiamo di calcio, tutti noi abbiamo la nostra formazione del cuore, quindi vorremmo quel campione piuttosto che un altro, però poi quando arriva la novità è evidente che vogliamo saperlo per primi e informarci, quindi è il sale del giornalismo dal punto di vista sportivo, calcistico ovviamente, e quindi per me è una fortuna, anche se è un elemento di lavoro molto sacrificante, perché bisogna essere sulla notizia 24 sempre, ore su 24 e 365 giorni all'anno, perché il mercato non chiude mai. No. Il mercato dei sogni quantomeno non chiude mai, non ci sono date. Veniamo alle cose che stanno succedendo, Carlo. Oggi scrivi di questa saga Inter. Sì. Inter che smonta la squadra in attesa di rimontarla in un'altra maniera. Maicon, Real più vicini, Balotelli vicino oppure no al City, ma comunque lì finirà. Sì. Diciamo che come esito quello di Balotelli mi sembra il più scontato, sì. È solo questione di giorni, però più o meno il prezzo è fatto, l'accordo con il giocatore c'è anche. Quello di Maicon è un lavoro ancora un po' più indietro, anche se io alla fine ho l'impressione che nonostante tutte le cortine fumogene da una parte e dall'altra, sia il Real che l'Inter hanno interesse a chiuderla questa trattativa, quindi magari dovremo attendere gli ultimi giorni, ma non dimentichiamo che un anno fa di questi tempi, a parti invertite, Sneijder indossò la maglia dell'Inter a due giorni dal debutto in campionato, quindi sì. Non stupiamoci se il film di Maicon sia pressoché simile, e quindi anche in entrata che poi l'Inter colmi le sue lacune in extremis. Chiesto un sacco di soldi ma con la Reale. Sì, è la legge del mercato, lui non guadagna poco perché all'Inter già è sui 4,5, quindi è chiaro che nel momento in cui... Va per guadagnare di più. Ovvio, ognuno fa il suo gioco. Ovviamente sì. Paolo, provincia di Como, primo di oggi, 800 24 00 24. Buongiorno Paolo. Buongiorno, presenta. Dica. Ascolti, io ho visto il Milan giocare questi giorni e ho visto dei ragazzini interessanti. secondo lei c'è la speranza di vederli giocare in prima squadra ancora? Poi un'altra piccola cosa, sì, se posso. Certo, da quando conduceva la trasmissione al mondiale, che parlava dell'Olanda, ti ricorda dell'Olanda degli anni 70? Sì, parlava di un sacco di cose. Un'altra squadra che assomigliava, sì, a quell'Olanda. Sì. E mi era venuta in mente l'Ungheria di Puskas, grandissima squadra, ma vero? Sì, io l'Ungheria di Puskas non l'ho mai vista. Mi associo. Però si tramandano leggende. Tramandano leggende di questo tipo. Beh, quella dell'Olanda, insomma, ho iniziato a viverla quando ero nel 78, e poi per riflesso quella della, andando indietro nel 74, l'ho letto sui libri. L'Ungheria di Puskas, altra grande squadra che ha scritto la storia, rivoluzionaria a suo modo come l'Olanda. Quanto alla prima parte della domanda, caro Carlo Laudisa, l'estate è il tempo del mercato, è il tempo anche delle cotte, no? Da quando eravamo, sì, bambini al mare, sì, le cotte estive adesso sono cotte per tifosi di calcio, milanisti con Verdi e Merkel, gli interisti con Coutinho, quel ragazzino che ha segnato Biraghi, che ha segnato un grandissimo, sì, gol l'altro giorno negli Stati Uniti, Fiorentina con gli AIC. Oggi sono queste due pagine bellissime sulla Gazzetta, sì, tra l'altro, il tuo giornale, in cui si fanno tutti questi nomi di future di stelline, insomma, molti sono stranieri, quasi tutti sono stranieri, sì, e poi parliamo anche di giovani italiani, dei loro problemi. Non so quali di queste stelline diventeranno stellone magari già quest'inverno. Ma è un fatto emotivo, no? Infatti oggi la Gazzetta ha dato spazio a queste storie perché mi sembra bello che ci sia il sogno, in questo caso, che queste comparse diventino poi protagonisti, no? Non tutti ce la faranno, è evidente. Rispetto alla domanda del nostro ascoltatore, riferito al Milan, l'impressione è che quest'anno ci siano più chance, per cui la scelta di Allegri è emblematica, la vicenda di Merkel, perché è già stato detto, però Merkel era arrivato 2 anni fa, è un ragazzino, è una storia incredibile, perché è un ragazzo nato in Kazakistan ma da genitori bielorussi, passaporto tedesco, aspira a giocare nella Russia, vive in Italia da 2 anni, era stato anche, se vogliamo, anche un po' accantonato perché in primavera non era mai sbarcato. L'ha visto Allegri e ha detto: questo ha i numeri, e lo ha mandato in campo e sta rispondendo. Allora, se Merkel riuscirà a ritagliarsi un posto in prima squadra, sarà un sogno realizzato. E più realisticamente penso che possa fare un percorso di crescita in mezzo ai campioni, e questa è la nuova filosofia del Milan, in cui evidentemente Allegri ha una responsabilità, certo, fondamentale, quella di far crescere i giovani senza dare loro eccessive responsabilità, perché poi non bisogna essere molto tranchant nel dire addio ai vecchi, avanti ai giovani, certo, la verità sta sempre nel mezzo, quindi è bene che il Milan, visto che stiamo parlando del Milan, affaccia a retare Seedorf per dare spazio a Merkel, certo, ma l'uno non può stare senza l'altro in campo. No, ma poi non si tratta tanto di essere giovani, bisogna avere i numeri, perché molti infatti giocatori, insomma, abbiamo detto no, nel Milan nel passato Albertazzi perché non gioca, sì, e prima ancora Antonini, quest'anno ha giocato, l'anno prima no, perché non giocano questi, evidentemente perché Paloschi lo dai in prestito di qua e di là. Va bene, devono essere giovani, ma devono anche essere giocatori, in quel caso, da squadra di vertice. Ci fermiamo per il traffico, subito dopo Vincenzo da Isernia, 800240024, ricordo numero verde, c'è anche una dichiarazione di Caliendo di pochi istanti fa, 14.07, questa agenzia, su questa operazione qualcuno sta giocando sporco, dice il procuratore di Maicon, i nodi prima o poi verranno al pettine. Chi è che fa questo gioco sporco? La verità verrà fuori prima o poi, ha detto Caliendo, aspetto che qualcuno dia un atto definitivo alla questione, che si decide in qualche modo, e noi poi non è che ci interessi molto, eccetera, eccetera. Insomma, qualcuno sta giocando sporco, ma Caliendo non dice chi. I ragazzi del basket sono impazienti, mi mandano un sacco di messaggi, ma due parole sulla nostra fortissima, ovviamente non è fortissima attualmente, nazionale di basket. Me le aspetto, scrive Massimiliano da Treviso, e l'Italia del basket vergognosa, poi ne parliamo, insomma, ve lo prometto. Però adesso con Carlo Laudisa stiamo continuando a parlare di calcio con molti ascoltatori in linea. Vincenzo da Isernia, buongiorno. Buongiorno a voi. Io più che altro voglio manifestare la mia perplessità sulla Juventus. Sì. Ha preso dei buoni elementi, ma non eccezionale, vedesi Pepe, Martinez, Bonucci e compagnia cantante, però secondo me non vorrei che fosse un bis della stagione fallimentare dell'anno scorso. Non so cosa ne pensate voi, volevo un po', visto che c'era il vostro esperto, sapere un po' se c'era qualcosa di buono in cantiere, insomma, ecco. Sì, grazie. A lei Vincenzo, preoccupatissimi tifosi della Juventus. La Juventus ha 40 giocatori, dovrà anche vendere qualcuno prima o poi, no? Sì, sennò come fai a comprare? Questo innanzitutto riguardo al bilancio sugli acquisti fatti. Certamente questa Juve ha avuto il coraggio di intraprendere la strada contraria a quella fatta l'anno scorso. L'anno scorso fu fatta la scelta dei grandi nomi, Diego e Felipe Melo, che sembravano il top nei ruoli, ed è finita come è finita. Quest'anno la Juve ha preferito mettere fieno in cascina, non ci sono, questo va dato atto, dei nomi che facciano impazzire le folle, però ha un allenatore che ha una sua identità, ha una società che sin dalle prime mosse ha cercato di inculcare al gruppo una mentalità nuova che forse era smarrita, perché a mio modo di vedere l'errore maggiore l'anno scorso è stata questa sorta di autogestione in cui Ferrara ha pagato lo scotto di uno spogliatoio da cui forse non si era staccato, sì. E con l'ombra di Lippi, perché quello evidentemente ha inciso, e quindi i giocatori non sono stati capaci di autodeterminarsi. E poi a errore si è unito errore. Quindi perché ho fatto tutta questa premessa? La scommessa che sta facendo la Juve di Andrea Agnelli e di Beppe Marotta come manager è quella di creare un collettivo che poi abbia anche le sue punte di qualità. C'era il sogno Dzeko, che purtroppo credo non sia realizzabile. Vedremo se arriverà Krasic. E ovviamente tutto si basa sul recupero di Amauri e Trezeguet in avanti, e poi il resto viene di conseguenza. Sì, Juventus che comunque io continuo a pensare stia pagando questa ostinazione nel tenere in sé una vecchia guardia che adesso si sta via via assottigliando, no? Però questa vecchia guardia ha finito per dettare legge con Ranieri prima, con Ferrara poi, in maniera molto pesante. E in sintesi è quello che ho detto anch'io, no? Nel senso che l'anno scorso quella vecchia guardia non è riuscita ad avere questa responsabilità, a reggerla, e adesso il nuovo corso è sottolineato dal peso della società, sì. Che l'anno scorso evidentemente non ha usato il pugno duro, come era giusto che fosse. Antonio, provincia di Caserta, poi vorrei anche con te, Carlo, approfittando della tua presenza, analizzare un altro caso che ieri ho sfiorato, che mi lascia abbastanza basito, del caso della Lazio. Juventus ha 40 giocatori e deve venderli, però sono giocatori con grande passato e magari non tanto futuro, con contratti in essere ancora molto pesanti, vengono in mente subito Trezeguet e Camoranesi, tanto per fare due nomi. La Lazio continua a comprare giocatori, ha una rosa sterminata, adesso prende Boateng, non so, prende Hernandez, prende degli altri, anche buoni giocatori, però ne ha sempre 40. Sì, strano, Me, la stranezza nasce dal fatto che Lotito in questi anni mediamente ha tenuto gli ingaggi bassi, poi gli spende ugualmente i soldi perché ne ha talmente tanti, come dici tu. Soprattutto poi lui si è fatto paladino di questa battaglia, no? Una finita per lui male, quella di Pandev. Quella invece di Ledesma lo ha visto vincitore, e non a caso queste due contese hanno fatto da apripista quella che poi è la la lotta del momento, no? Quella in cui poi i club della Lega, della neonata Lega D e Serie A hanno disdetto l'accordo collettivo. Qui rischiamo di andare fuori argomento, però questo è uno dei momenti di scontro che potrebbero produrre delle novità. È una fase molto delicata, sì. Per cui certamente il calcio italiano sta vivendo una fase di assestamento dovuta a un risparmio imposto dalla crisi, per cui l'effetto scandaloso è che a livello europeo più che l'anzianità dei giocatori in rosa, quello che colpisce è il fatto che l'Italia guidi in peggio, perché il 70% dei ricavi vengono spesi per il monte stipendi. Certo, quindi certo. Sono questi sperperi, sì, che evidentemente stanno pesando anche sulla qualità poi del prodotto. Io continuo a pensare che si parla molto di rivoluzione e rifondazione anno zero, queste cose da mille punti di vista. Non so, io continuo a pensare che la rivoluzione debba avvenire a livello societario per i nostri club. Per decenni abbiamo avuto dirigenti con i soldi in mano che andavano a comprare, a fare la spesa all'estero. Adesso rimangono gli stessi dirigenti, non ci sono più invece i soldi, non ce li hanno più in mano neanche in tasca. Servono, secondo me, io continuo a dirlo, investimenti strutturali. È un altro modo di gestire lo sport. È su questo, da questo punto di vista, che siamo tremendamente arretrati nei confronti di tutti. Antonio, buongiorno. Buongiorno, io poi a proposito di questo volevo intervenire. Sì. Mi ha detto che sono un tifoso milanista, quindi mi costa dirlo, però purtroppo è la verità. Di come abbia avuto la società dell'Inter un'evoluzione, diciamo, sì, a partire dal 2007, diciamo, da quando è successo la situazione Calciopoli, componente importante. Cioè, da come, derisa da tutti fino a quel momento, con un presidente che cacciava solo soldi senza sapere né il perché né per come. Ora invece come è incredibilmente organizzata, di come faccia degli affari e plusvalenza allo stesso tempo, continuando a vincere addirittura di più. Basta pensare al fatto di Ibrahimovic, venduto per una cifra sproporzionata, certamente, con il ritorno di Eto'o, che secondo me è un giocatore molto più forte di Ibrahimovic. Sì, giocatore diverso, però indubbiamente l'Inter ha fatto affari negli ultimi anni. E, più che altro mi incuriosisce, più che guardarmi dietro, mi incuriosisce guardare avanti. Questo, la nuova politica dell'Inter, perché vendono Balotelli, perché vendono Maicon? Che cosa sta facendo l'Inter? Cosa ha in testa l'Inter? È questione di fair play finanziario da raggiungere, da perseguire, o c'è dell'altro, Carlo? No, io credo che il fair play finanziario sia, come dire, anche un pretesto. Sì. Perché certamente è un obiettivo per i nostri club più di altri, perché qui potremmo stare una giornata intera a spiegare come il calcio italiano è vero che sperpera, però ha anche dei costi strutturali molto più elevati che negli altri paesi europei. Vogliamo fare due esempi, due paragoni, per non andare troppo oltre. La Spagna, vincitrice del mondiale e dell'europeo, e la Germania. La Spagna ha un sistema, io direi, anacronistico, perché per effetto anche delle vecchie situazioni storiche del campanilismo fra Madrid e Barcellona, sono le uniche due realtà. Lì non ci sono, non c'è la mutualità, nel senso che le grandi prendono tutto e lasciano le briciole alle altre. Sì. In Italia invece esiste una divisione che, guarda caso, ha permesso la crescita di un ceto medio, quello che può essere le squadre che ambiscono la Champions League, e sono tante. Sì. Per cui non abbiamo certamente più il campionato più bello del mondo, però abbiamo quello più combattuto, perché abbiamo città e società che nutrono delle ambizioni che poi sul campo vengono corrisposte anche dal fatto che economicamente il denaro viene distribuito di più. Sì. La Germania invece ha avuto l'accortezza, l'intelligenza di rifarsi tutto, di ripartire su basi anche socialmente nuove. Sì, sì. Due sono gli elementi che secondo me predominano. Uno è l'aspetto degli stadi. Loro hanno organizzato il mondiale, li hanno ristrutturati e sono realtà che creano business, creano utili. Naturalmente. Purtroppo noi nel 90 ospitammo il mondiale, ma facemmo gli stadi con le piste d'atletica. Uno stadio di calcio senza la pista atletica, con tutto il rispetto per la regina delle discipline sportive, è evidente che ha tutt'altra storia e ha tutt'altro appeal. Gli stadi poi, Italia 90 nacquero vecchi, vecchi con dietro mille storie, per i mille compromessi figli della nostra cultura sportiva. L'altro aspetto per esempio è quello sociale, sul tesseramento dei calciatori che sono tedeschi diciamo solo per acquisizione di questo passaporto, ma non per nascita. Noi da questo punto di vista siamo molto più rigidi, e quindi anche questo, il tema degli oriundi vista la nazionale, certamente pesa. Ma ho un po' allargato il discorso per tornare alla competitività del nostro campionato e dei nostri club. È evidente che bisogna svecchiare, bisogna cercare di avere nuove regole più agili, più moderne, e in questo va anche evidentemente vanno indotti i presidenti, i proprietari dei club, a essere più imprenditori e a essere anche più moderni. Non c'è dubbio, ripeto, il calcio in Italia è gestito come 50 anni fa, come 30 anni fa, come nei momenti storici in cui c'era il grano, e allora si poteva, quest'anno si sarebbe fatta la spesa in Germania, in Olanda dopo i mondiali, adesso la situazione è diversa. E comunque l'Inter, visto che la domanda nasceva da Moratti, Moratti è stato molto bravo a convertire la politica dell'ultimo decennio, perché è vero che c'è stato il terremoto del 2006 ad aiutare il club nerazzurro, perché se non fosse arrivato Ibrahimovic senza Vieira, forse il gap delle altre squadre non sarebbe stato ribaltato. Che tutto nasca da lì, insomma. Sì. Diciamo che ha accelerato, quel evento ha accelerato la crescita di una società che ha investito, ma io dico che lo spartiacque con l'avvento di Branca, direttore tecnico, è stato l'ingaggio di Cambiasso. Uh-huh. Quel Cambiasso preso a parametro zero del Real Madrid ha fatto capire all'Inter che c'era un'altra strada possibile, e lì l'hanno perseguita, l'hanno seguita con sempre maggiore attenzione e con bravura. Certo. Io vorrei sentire la domanda di Francesco da Brindisi, poi abbiamo anche Renato e Franco dopo la borsa, però Francesco, se mi fa il suo intervento poi le rispondiamo. Dica. Salve, senta, approfitto della presenza lì dell'Audisa per sottoporre la mia teoria. Io ritengo che le ultime quattro stagioni dell'Inter siano state trionfali e quelle della Juve perdenti unicamente per via del mercato, cioè l'Inter si è rafforzata. La Juve dal ritorno in A ha acquistato Grighera, Molinaro e via discorrendo, Andrade, Thiago, Almiron, Iaquinta, Mauri, cioè non si è mai rinforzata, cioè ha speso soldi ma effettivamente non si è mai rinforzata. Siccome ritengo questa la causa principale delle ultime quattro stagioni nella Juve, cioè il mercato che è stato fatto da uomini assolutamente incompetenti, e questa la ritengo una cosa molto palese, allora la mia meraviglia è quella: come mai voi giornalisti non avete fatto presente a Blank e a diciamo il presidente Elkan questa situazione? Cioè, anziché assistere a delle banali conferenze stampa, no? Possa essere stata fatta questa riflessione nei confronti di Blank, cioè la cosa è evidente, gli acquisti sono stati tutti sbagliati. Sì. Lasciamo perdere poi Diego e Melo dell'ultimo anno, ma ormai sono 4 anni che sbagliavano la campagna. Io capisco che il rilievo non è inedito, insomma l'ho sentito negli ultimi 4 anni moltissime volte, non naturalmente sempre da Francesco ma da migliaia di ascoltatori juventini, insomma sembra il rilievo sia evidente. Io dopo la borsa sentiamo la risposta di Carlo Audisa. Io continuo a pensare che ritoccare, rinforzare una squadra già forte, già vincente sia un conto, dover ricostruire ab origine una squadra dopo il terremoto sia una cosa un po' diversa. Continuo anche a pensare che il peccato originale stia nella conferma di una vecchia guardia che poi si è rivelata alle prove dei fatti, secondo me, un ostacolo a questa ricostruzione. Dunque torniamo con Carlo Laudise con una domanda mezza in sospeso, quella sulla Juventus e su queste continue lamentele della tifoseria bianconera sull'operato della dirigenza. Quante volte l'abbiamo sentita, Carlo, questa? Gli errori ci sono stati sicuramente, ma sarebbe ingeneroso dire che sia solo esclusiva colpa dei vecchi dirigenti. Io ho già sottolineato nel precedente intervento le novità introdotte dalla gestione di Andrea Agnelli. Devo anche dire però che l'opera, lo hai già detto, anticipato tu, l'opera che attendeva questa Juve era improba, perché risalire la china dopo un disastro qual è stato che si è abbattuto sulla Juve nel 2006, io ricordo ancora che in quei mesi, subito dopo, c'era tanto entusiasmo, si diceva sì, in un paio di anni. Io ho sempre detto ce ne vogliono tre se non quattro, e purtroppo è stato così, perché ex novo andare a pescare i talenti era difficile, e condivido il fatto che la vecchia guardia abbia inciso. C'è stata la paura di accantonare determinati campioni, e credo che la metafora in negativo, senza attribuirgli le colpe che poi sono solo in parte sue, sia stato il ritorno di Cannavaro l'anno scorso. Quello è l'errore più grande, che guarda caso ha colpito poi anche la nazionale. Certo, perché c'è stato un tentativo di caricare di responsabilità quei giocatori che evidentemente non avevano questo tipo di peso. Sì, poi se continui a guardarti indietro non riesci a camminare in avanti, insomma. Ciò che è sorprendente è che la Juventus non sia riuscita in tre anni a costruire nulla, che ogni anno debba ripartire da zero. Renato da Milano, poi Franco da Roma. Buongiorno Renato, dica. Buongiorno a lei, complimenti alla trasmissione. Grazie. Senta, io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso dell'intoppo Balotelli-Maicon per gli ingaggi. È chiaro, quello che le dico io è quello che leggo sul giornale, perciò non so se è la verità o meno, però a me mi sembra che a un certo momento un giocatore di 19 anni che prende 1,5 milioni di euro all'Inter e parte chiedendone col suo procuratore 5,5, adesso arriva una 3,5, però l'Inter ci deve rimettere 5 milioni, io fossi Moratti non lo mollo. La stessa cosa di Maicon, cioè io non so con che coraggio, se viene uno va a chiedere 7 milioni di euro di ingaggio a 30 anni, quando secondo me, per l'amor di Dio, quando ne prendi 3,5, quando ne chiedi 5,5 è un bel prendere. Beh sì, si cerca di guadagnarne sempre di più, no? Si va se si ha convenienza. Quanto a Balotelli, poi l'Inter anche in questo è stata molto brava, a partire da Mourinho: ve lo do a questo prezzo e di lì non scendo, e quindi quando arrivate con i soldi che chiedo io vi do i giocatori. Da questo punto di vista anche l'Inter è diventato un osso durissimo per chiunque voglia acquistare giocatori. Quanto a Balotelli, va via dall'Inter perché? Va via dall'Inter perché alla fine per fare cassa? Abbiamo già parlato prima, però lasciami dire la mia, Carlo. Mourinho ha un po' usato questo giocatore, ha un po' usato questo giocatore come reagente per cementare il gruppo. Certi rapporti non sono più probabilmente ricucibili tra Balotelli e il gruppo, e questo può aver avuto un peso nella strada diversa che Balotelli ha preso. È come se mi avessi letto nel pensiero, no. Quello che credo anch'io, nel senso che Balotelli è stato sacrificato sull'altare della Champions League. Cinicamente sì. Mourinho ha fatto il meglio per la squadra, quindi alla fine Moratti ha dovuto prenderne atto. Va anche detto che Balotelli ha le sue stranezze, quindi non è che ha trovato terreno, ecco, non ha scelto uno a caso. Non voglio che si pensi che stiamo facendo passare Balotelli per un martire, non lo è. Però nella storia di questa stagione trionfale, certamente quella di Balotelli è una vicenda che ha le sue contraddizioni. Ecco perché adesso è finito sul mercato. Per quel che riguarda l'idea del nostro ascoltatore sulle eccessive richieste dei giocatori, io sono parzialmente d'accordo, nel senso che è una legge di mercato. Più aumenta il livello, la quotazione del trasferimento, è giusto, è moralmente corretto che il calciatore chieda in percentuale. Poi prima hai riferito la frase di Caliendo su qualcuno sta giocando sporco, è una frase teatrale che evidentemente in questo momento aiuta anche il giocatore a essere sgravato di responsabilità, quindi la prendiamo per quella che è, però è una parte di verità, nel senso che quando c'è una vendita, sì, alla fine, per andare sul pratico, il Manchester City ha messo a budget una somma. È chiaro che se dà un qualcosa in più all'Inter la dà in meno al giocatore, e viceversa. Quindi noi dobbiamo essere gli arbitri per capire chi ha ragione e chi ha torto. Mi sembra un esercizio molto responsabilizzante. È vero, per venire all'inizio della nostra conversazione, quando tu hai parlato di sogni, siccome a mio modo di vedere i nostri beniamini diventano il centro dei nostri sogni, quando il sogno è bello li vediamo in positivo e sono degli eroi. Quando il sogno non ci piace più, allora diventano protagonisti negativi. Dei mercenari subito. Ecco, quindi io credo che in questo ci sia anche nell'umore del nostro ascoltatore, credo che ci sia ancora l'immagine di quella maglietta stampata a terra al San Siro contro il Barcellona. Penso che quella immagine ancora colpisca i tifosi dell'Inter. Beh, non c'è dubbio. Franco da Roma. Buongiorno a lei. Entrambe. Senta, ho sentito prima parlare di rivoluzione societaria e in questo penso che Lotito, il presidente della Lazio, sia stato un antesignato per certi punti di vista nella fase di taglio di bilanci, risparmio di costi, avendo un grosso ruolo anche nel salvataggio della società. Sì. Purtroppo una rivoluzione che ha avuto poi il suo termidoro nel momento in cui... Complici spalmature ben note. Che però erano a disposizione tutte le società d'Italia messe nello stesso tipo di situazione dal punto di vista legale. Però appunto una rivoluzione interrotta nel momento in cui ha dimostrato la propria incapacità nella fase di sviluppo della società, come dimostra. L'esempio è quello che ha detto lei, dei 40 giocatori che già l'anno scorso hanno rischiato di portarci in Serie B a detta di Ballardini prima e di Reggia dopo, per l'incapacità di Lotito di dotarsi anche di uomini in grado di poter tessere rapporti con altre società sul mercato italiano, e non per niente i migliori colpi fatti da Lotito sono stati sempre sul mercato internazionale e grazie al ruolo di alcuni procuratori, fortunatamente Hernanes adesso e Zarate qualche anno fa. Sì. Quindi dall'altra parte questo lo sconta la stessa mancato sviluppo anche nei confronti dei tifosi, perché mentre una volta ci poteva esserci un gruppo di soggetti abbastanza delinquenti, possiamo dire, pagati da precedenti gestioni, adesso c'è, potrei dire, quasi un'intera tifoseria ormai in rivolta contro il presidente, come dimostra la clima che si può vivere allo stadio e la totale assenza di abbonamenti in quest'ultimo anno, indipendentemente dalla questione tessera del tifoso. C'è una situazione molto controversa alla Lazio, nei rapporti tra la tifoseria laziale e il suo presidente sono questioni, permettetemi, senza offendere nessuno, molto romane queste. Perché guardandole da un altro punto di vista diventa anche difficile capire il senso di certe contestazioni quando 2 anni fa la Lazio fece un campionato strepitoso, sorprendente, no? E ve lo ricordate tutti. Poi ci sono questioni molto interne all'ambiente laziale sulle quali non saprei cosa dire, o meglio lo so e l'ho già detto diverse volte, quando si viene a criticare dal punto di vista sportivo comunque un presidente che, complici le varie spalmature, ha salvato la Lazio per i capelli eccetera eccetera, l'ha portata in Champions League, io fatico a comprendere. Detto questo, rimangono certi aspetti molto curiosi nella gestione di questa società che fanno capo appunto alla mania di Lotito di fare tutto da solo, no? Poi mi viene in mente anche una frase di Gasperini, che è allenatore del Genoa, che ha detto: spesso si prendono giocatori che regalano un'opportunità economica ai presidenti e non i giocatori di cui una squadra ha bisogno. Carlo Lodi, ti piace il basket? Sì, anche se colpevolmente lo frequento poco. Lo frequenti poco. Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera. Ciao Flavio. Buongiorno a tutti, salve. Salve. Ciao Flavio. Avevo un messaggio che sto andando a ripigliare, che è questo: va là che adesso Pianigiani fa meno il fenomeno, ha scritto un ascoltatore. Cattivissimo. Cattivissimo, ma insomma non dunque, allora, è andata sicuramente molto male e forse anche peggio di quello che ci si immaginava, perché tutto sommato non dobbiamo dimenticarci che Israele, per quanto sia una squadra di tradizione, è comunque stata la peggior squadra dell'ultimo campionato europeo, quindi abbiamo perso in maniera molto tosta contro un avversario che sicuramente non è certo di primissima fascia. Però ecco, innanzitutto era la prima, e questo sicuramente è un buon motivo, non una scusante, ma sicuramente un buon motivo per capire perché magari la squadra ha giocato a volte anche contratta, a volte anche con delle esagerazioni, con la voglia di strafare. C'era la necessità di aprire bene questo nuovo corso e purtroppo alla fine lo si è aperto male. E poi comunque il torneo fortunatamente è ancora lungo e consente delle possibilità di ripresa, anche se realisticamente, obiettivamente, sono molto molto difficili, anzi molto più difficili dopo ieri sera. E anche tu hai sottolineato oggi come la squadra giochi con grande tensione addosso, insomma sembra una squadra che la prima difficoltà si porta sulle spalle gli ultimi fallimenti, la prima difficoltà si scioglie, non basta ancora il potere taumaturgico di Mago Merlino Pianigiani, insomma, mi pare, Flavio. Ma diciamo che oltretutto no, questo può essere l'aspetto, diciamo, emotivo, psicologico, ma poi ci sono anche delle questioni molto più banalmente di ordine tecnico. A noi manca sicuramente un dominatore dell'area, un centro vero, perché Bargnani sicuramente può giocare in quel ruolo lì, però lui è un 4-5, comunque è piuttosto solo in questa situazione di dover dare quantità e qualità. E poi, a voler vedere, ieri sera è venuto a galla anche, a mio avviso, il problema della regia. Sì. Maestranzi è un ottimo tiratore, però è una farfallina proprio. Si vede che fisicamente non è in grado di sopportare certe tensioni e certi contatti. Alla fine forse l'unico che davvero ha interpretato un po' la partita, soprattutto quello che serviva, è stato Mordente, peraltro accompagnato da una serata pessima al tiro, e un po' la chiave di volta di tutto, e anzi del giocatore comune di tante situazioni, è proprio la scarsa e inattesa poca precisione, appunto la scarsa precisione al tiro che abbiamo avuto da lunga distanza. Certo. D'altra parte, Maestranzi, partite giocate in Eurolega zero, insomma, per zero, è la prima volta che si affaccia. Non si nasce imparati, nemmeno non si nasce imparati, no. Anche meno. Ti chiedo ancora questo: Belinelli può essere un problema tattico, quantomeno? Belinelli, è chiaro che a prima vista tu guardi il tabellino e dici 20, vabbè, 20 punti che non incidono, sono 20 punti che così lasciano il tempo che trovano, e ti ricordi invece tutte le sue forzature, delle esagerazioni, di certe cose fatte sopra le righe. Io non me la sento di dare comunque la colpa più di tanto a lui, perché sicuramente lo fa in buona fede, ci mette anche il cuore, il carattere. Il problema è un altro: non bisogna arrivare nella condizione in cui Belinelli si sente in questa situazione. Cioè, se ci fosse un gioco, se fosse stato perlomeno ieri sera un gioco differente in cui c'erano magari delle soluzioni per i centri, un qualcosa di più variegato, si evitava, probabilmente sarebbe evitato ovviamente anche questo non trascurabile dettaglio, cioè che Beli ha la tendenza in certi momenti ad andare sopra le righe, a prendere in mano lui la situazione e a strafare. Non sempre riesce il colpo di fare appunto canestro anche magari fuori posizione o fuori equilibrio o fuori ritmo, più gioco, facile certo. Che esca. Certo, grazie Flavio, buon lavoro. Grazie a voi. Speriamo di poter parlare di cose più divertenti da giovedì, quando giocheremo, meglio da venerdì, giocheremo giovedì sera contro la Lettonia, in Lettonia, la partita da vincere a tutti i costi, periodaccio per le nazionali italiane. Sì. Di Baggio cosa dici? Beh, Baggio... Operazione simpatia, operazione demagogia, non so com'è sta storia. No, è tutto da scoprire, perché Baggio certamente ha incantato non solo l'Italia, il mondo per tanti anni, quindi ispira simpatia. Ma non c'è dubbio. Vediamolo alla prova, certamente è un segnale di innovazione della federazione, visto che peraltro verrà accompagnato anche da Sacchi, probabilmente anche da Rivera, quindi c'è un tentativo di innovare. Vedremo con quali reali idee, perché è chiaro che la federazione deve a livello di nazionali portare qualcosa di nuovo, sì, per aiutare i club che evidentemente hanno altri interessi, che se ne dica, per una società portare un giocatore in nazionale economicamente è un rischio. Mm-hmm. E quindi cinicamente non c'è quell'attenzione che ci sarebbe stata magari in passato. Poi torniamo adesso a un discorso sulla Juve. La Juve per tanti anni tradizionalmente è stata il bacino della nazionale. Nella sventura del 2006 io credo che abbia inciso anche questo. Per cui anche il fatto che la Juve abbia un po' pescato anche sul mercato italiano e mi sembra un segnale incoraggiante. Ecco, sì, perché va aiutata. Ecco. Fabrizio da Pavia e poi chiudiamo. Dica. Buongiorno. Sì, buongiorno dottor Zenta, buongiorno a lei. Dica. Volevo fare una domanda al suo ospite, il dottor Laulisa. Volevo che mi spiegasse l'acquisto di Amelia al Milan. Domanda così, sec, tranchant. Beh, siamo appena liberati di Dida e no, ci abbiamo infilato Amelia. Dida, cappio al collo Dida. Dal punto di vista bilancistico è un prestito, quindi costo zero per il cartellino, e va a guadagnare meno di Storari, perché Storari credo che ne prendesse 1,2 e Amelia ne prenderà poco meno, quindi diciamo che è stata una scelta anche per non mettere in difficoltà Abbiati. È una scelta di transizione. Per chiudere la questione Lazio, l'ascoltatore, sì, prima, la questione Lazio, ambiente molto particolare, cioè, sì, se non sei dentro non capisci fino in fondo. Rischiamo di andare a scoprire dei nervi che magari non conosciamo. Il dato storico è questo: Lotito ha avuto grandi intuizioni, in questo momento mi sembra prigioniero delle sue ostinazioni. Sì. L'anno scorso per esempio ha sbagliato la scelta di Ballardini, lui l'ha coerentemente difesa rischiando la retrocessione. E questa mi sembra la figura di questo presidente, che evidentemente ha dei meriti, però deve anche confrontarsi con la realtà, e la realtà non è solo quella dei tifosi, che hanno le loro ragioni, ma anche quella di un sistema in cui non ci sono dei padroni e dei servi sciocchi. Sì, hai ragione. Carlo, io ti ringrazio per essere stato con noi. Io ringrazio te e ringrazio tutti. Naturalmente ti aspetto quando avrai un po' di tempo, so che per te è un periodaccio questo. Però è sempre un piacere. Ci ritroviamo quanto prima. Prima di chiudere definitivamente la puntata, ci resta come ogni giorno la pagina dei motori. La risolviamo con un'intervista che Dario Ricci ha fatto a Giancarlo Minardi, sapete bene chi è. Tra le altre cose, come gli appassionati sapranno, scopritore di Fernando Alonso, visto che abbiamo parlato di mercato e di talent scout. Noi ci ritroviamo domani pomeriggio dalle 2 alle 3 ogni giorno per tutta questa estate, dal lunedì al venerdì. Mica andiamo in vacanza e siamo qui a parlarvi di sport. Grazie a Laura Vanossi per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadore in regia. A domani. Sport e motori. Fernando ha fatto una gara stupenda, perché era su una macchina indubbiamente penalizzante rispetto allo strapotere del Bull. Errori altrui, e questo ci commentiamo nella parte calda, può darsi che si ripetano nel futuro, hanno contribuito a guadagnare un sacco di punti sulla concorrenza e soprattutto su Hamilton, perché col guasto che ha avuto ha fatto un 1-0 che potrebbe essere importante nel proseguo del campionato. Credo che ci avviamo verso la parte più bella della stagione, con 20 punti da recuperare che non sono impossibili, con una Ferrari che sembra che abbia deciso quali sono le gerarchie in campo, cosa che non ha ancora fatto la Red Bull. Diciamo che il nervosismo di Vettel sono buono, nel senso che io non credo che lui si sia addormentato dietro la safety car. Per me è un forte e appariscente gioco di squadra, credo che questo nervosismo possa portare dei vantaggi in casa Ferrari. Dietro la lavagna Michael Schumacher, no? Per quella manovra che definire assassina è quasi poco nei confronti di Rubens Barrichello, uno Schumacher che ha però chiesto anche scusa. Direi che la notizia del giorno è questa, no? Un Michael Schumacher che in qualche modo ammette il suo grave errore. Ma effettivamente dopo quelle sue dichiarazioni del post gara che mi avevano lasciato ancora più allibito della manovra in gara, mi sembra che sia un bel gesto. Probabilmente si è ricordato che è 7 volte campione del mondo e quindi come ha detto lui, visto e rivisto il filmato, chiede scusa a Barrichello. Effettivamente ieri ha fatto una cosa, peraltro non è la prima volta nella sua carriera, compreso quest'anno, per cui secondo me la punizione è stata anche troppo buona, troppo leggera, e il fatto che lui abbia chiesto scusa, questo è un fatto decisamente positivo, gli dà merito se non altro. Sempre a proposito di Schumacher, a questo punto si può tracciare già un bilancio di questo ritorno che aveva infiammato la vigilia del campionato e che ora invece sembra non lasciar traccia sulla classifica, e se non per questi aspetti negativi. Ma io l'avevo già detto inizio anno, era un ritorno difficile da fare, con un compagno di squadra ancora più difficile, perché ritengo che Rosberg sia uno dei piloti più veloci, o comunque nei primi 5-6 più veloci della Formula 1. Difficile, 41 anni, 3 anni fermo, è difficile rientrare per vincere, poi è costantemente o cerca di essere nei primi 10 e questo già gli fa già onore, perché non è facile stare in un campionato così combattuto nei primi 10, ma credo che ormai difficilmente ritornerà Schumacher del passato. A tempo di sport.